Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Ed eccoci, ancora domenica. Sempre di domenica a mezzogiorno, ore 12. Chiedimi, ma quanto tempo è che non mi chiedi se sono felice? Sì, effettivamente, dall'altro giorno. Secondo me da quest'estate. Sei felice? Sì, amore. Bene. Tu sei felice? Sono felicissimo, anche perché devo dire che c'è una festa di compleanno tra poco. No? Quindi è molto importante perché la persona che stiamo per intervistare ha preso una situazione drammatica e l'ha trasformata per molte vite in qualcosa di eccezionale. Abbiamo con noi Sara Turetta, che è la presidentessa nonché fondatrice di Saved the Dogs. Buongiorno, ciao Sara. Ciao Sara. Come stai? Bene, benissimo, sì. Grazie. Sei così, cioè, eccitata per questi festeggiamenti di questi 10 anni di Saved the Dogs? Molto contenta, tutto il mio staff qui è entusiasta, anche se ovviamente c'è un sacco di lavoro, però stiamo cercando di viverla anche come una festa, insomma, e non soltanto come un evento da organizzare bene. Senti, prima di raccontare anche un po', di darci un po' di numeri di quanti animali sei riuscita a salvare dalla Romania, perché non abbiamo detto che tutto questo lavoro... Che cos'è, esatto. Cos'è e da dove parte. A me incuriosisce capire che cosa ti ha spinto, cioè la tua vita fino a un momento prima, che cosa facevi, quanti anni avevi, cosa pensavi di fare da grande? Ma io avevo 28 anni ed ero lanciatissima nella carriera della pubblicità, lavoravo per una grande agenzia di pubblicità di Milano, avevo una passione per i cani, facevo volontariato in canile, però diciamo che volevo avere successo nel mio lavoro. E quando le televisioni, i giornali hanno iniziato a parlare di queste uccisioni davvero di massa di cani randagi, e Brigitte Bardot fu la prima di interessarsi tra l'altro alla questione, io sentì così il desiderio di dare un contributo fino alla decisione di trascorrere durante il periodo delle mie ferie una settimana in Romania portando degli aiuti a delle associazioni. Io avevo già viaggiato nell'est Europa e quindi pensavo di trovare una situazione come l'Ungheria, la Germania dell'Est, invece la situazione era sia per gli umani e soprattutto per i cani molto diversa. Cosa quindi vedevi? Perché mi sembra, cioè io avevo visto delle foto tipo gente col fucile che sparava al cane sotto casa. Oh madonna. Beh, questo sì, è avvenuto i primi anni. La cosa drammatica è che le catture ancora adesso, ma anche in quei primi anni, avvenivano con accalappiacani assunti dalle municipalità. I metodi di cattura erano e sono ancora purtroppo brutali e spesso gli animali non arrivavano e non arrivano vivi neanche ai canili dove vengono uccisi, perché spesso vengono soffocati, spesso hanno lesioni molto gravi, insomma. Comunque quel viaggio per me fu davvero una svolta nella mia vita. Immagino. Io sono tornata a Milano e non sono più riuscita ad interessarmi del mio lavoro, che fino a pochi giorni prima era insomma la mia grande passione. Per commuovermi, cambia subito. È vero. No, guarda, tutti e due, perché poi io mi immagino, guarda, ci bisogna avere anche una grande forza, poi anche unita alla sensibilità, no? Perché ci vuole un po' di follia anche, Rosita, ci vuole anche un po' di follia, perché queste sono decisioni che in realtà di razionale non hanno molto. Si sente la spinta a fare qualche cosa, la si segue ed è una spinta a cui non si può dire. Per lì non sapevi dove ti avrebbe portato. Tra l'altro poi il tema caldo per me cos'è? Che qualcuno le avrà detto: ma te sei pazza, cosa vai a fare? Non cambierai assolutamente nulla. A partire dai miei genitori che pensavano che sarei tornata, tra l'altro, quando poi ho deciso di trasferirmi in Romania, perché un anno dopo quel primo viaggio io ho lasciato il mio lavoro e sono andata a vivere in una località sperduta, in una zona poverissima, quindi diciamo dal centro di Milano mi sono ritrovata in mezzo a questi carretti trainati da cavalli macilenti in un contesto veramente diversissimo da quello milanese, italiano, e i miei genitori pensavano che avrei resistito 3-4 settimane, sono invece, tornata 4 anni dopo. E invece adesso sono 10 anni che tu hai preso. Hai fondato un'associazione, una onlus che si chiama Save the Dogs. Tra l'altro c'è un appuntamento, no, con Save the Dogs, che è quando, ce lo ricordi? Che è domenica 27 settembre a Villa Castelbarco a Vaprio d'Adda, a mezz'ora da Milano. Ecco, dalle 15.30. E ci saremo anche io e Rosita. Sì, ci siete anche voi, cosa di cui siamo felicissimi. Ma noi siamo felicissimi là dove possiamo aiutare, a dare un contributo, a portare la voce e raccontare storie che possano anche, che ne so, so, sensibilizzare le altre persone. Solamente una cosa, quanti cani hai salvato in questi 10 anni? Save Dogs ha salvato in questi 10 anni? Allora, io vorrei dare 2 numeri. Sì. Il primo numero, che è importantissimo, è quello delle sterilizzazioni, che sono 30.000. Okay. Sterilizzazioni gratuite fatte dal nostro staff medico in Romania. Mm-hmm. Pensate a quanti cani non sono nati grazie a queste 30.000 sterilizzazioni. Sì. E il secondo numero che vorrei dare, che mi permette di agganciarmi a un tema che mi è molto caro, che è quello delle adozioni internazionali, sono i cani che sono partiti dalla Romania, perché in Romania le adozioni sono pressoché inesistenti, soprattutto mm-hmm. nella nostra zona, e hanno lasciato la Romania alla volta di una famiglia all'estero. I cani che sono partiti sono 5.000, wow. di cui 2.300 sono arrivati in Nord Italia grazie ad una rete di rifugi che ci ha aiutato in questi anni a dare accoglienza a questi cagnolini. Beh, fantastico. Pensa per ognuno di questi cani la differenza che ha fatto l'idea di Sara. La differenza che ha, esatto. Speriamo che ci siano tante altre Sara Turetta in giro per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, in modo da... Noi li portiamo qui in radio a raccontare la loro storia e a parlare. Però tu ci hai segnalato una persona, Costanza Silbernagel, che ha adottato una cagnolina vostra, giusto? Che è una di queste 2.300 famiglie italiane che negli ultimi 10 anni ha aperto la porta della propria casa ad una cagnolina proveniente dalla Romania. E allora, nel ringraziare tutte queste famiglie che invece di andare a comprare il cane di razza, eccetera, senza nulla togliere il cane di razza, per carità, però si sono messe la mano sul cuore e hanno detto aiutiamo questi cani, diamo il benvenuto anche a Costanza Silbernagel, che ci può raccontare della sua cagnolina. Ecco, sì, infatti io vi racconto della mia cagnolina. Ciao, saluto tutto il pubblico e saluto anche Sara, dicendo appunto che è una persona speciale non solo con i cani ma anche con gli umani. È una delle donne più belle che io abbia mai conosciuto. Beh, guarda, anche spiritualmente. Ecco, sì. Concordo sia esteticamente che spiritualmente, ma credo anche che come si dice spesso, sai, chi ha compassione per un animale sicuramente ce l'ha anche per gli esseri umani, e il contrario, infatti, non è sempre detto che sia così. E infatti a me Adelina è arrivata appunto in una situazione molto drammatica. Appunto io nel 2013 avevo appena sconfitto, ma in maniera drammatica, un linfoma gravissimo. Oh, mamma. Ed ero pelle e ossa, appunto distrutta psicologicamente, a casa dei miei genitori, non potevo neanche stare a casa con le mie figlie perché non avevo le forze di occuparmene. E allora mia sorella, appunto, che collabora, era uno dei rifugi con cui collaborava con Sara, si presa da compassione anche nei miei confronti, così mi porta a casa appunto questi due cagnolini, appunto, di cui uno è Ciò, e dietro c'era questa schiacciatissima, appunto, specie di volpe minuscola. Senti, Costanza, aspetta, ti fermo solo un secondo perché dobbiamo dare un attimo il break, così lasciamo un po' di suspense e subito dopo continuiamo con il tuo racconto. Va bene, certo. Ciao, tra poco. Grazie. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Rieccoci in questa domenica insieme a Rosita Celentano e Angelo Baira. Abbiamo con noi Sara Turetta e Costanza. Costanza ci stava raccontando la storia di una cagnolina recuperata dalla Romania grazie a Save the Dogs, e che adesso sta bene, giusto Costanza? Sì, sta benissimo. Appunto, si è ripresa lei e mi sono ripresa io. Abbiamo fatto questo viaggio di verso la vita, appunto, entrambe. Lei era magrolina, appunto spaventata, mm-hmm. perché arrivava da una realtà molto difficile, appunto era stata recuperata sulla strada, appunto molto malmessa. Io ero a mia volta appunto molto malmessa, mi risollevavo da una gravissima malattia e ma ci precisamente siamo date, date forza a vicenda. Precisamente che cos'è che ti ha aiutato della compagnia di Adelina? Allora, il fatto che lei all'inizio viveva, i primi 2 giorni li ha fatti dietro una poltrona, nascosta dietro una poltrona perché aveva molto molto paura, appunto. Ma questa sua voglia appunto di riprendersi, di farsi forza, appunto di riavvicinarsi, poi venire a fare compagnia, appunto, cioè la sua forza d'animo. Io ero magra, brutta, così lei invece appunto veniva proprio vicino a me, sentiva che io avevo bisogno, appunto. Ecco, vedi, sai che guarda, questo è un punto veramente importante. I cani sentono come noi ci sentiamo, lo sentono dall'odore, infatti, lo leggono nelle espressioni facciali. Quindi sai, quando uno adotta il cane inizialmente può pensare a super performance, grande bellezza eccetera, ma quello che alla fine ti rimane dopo una vita trascorsa con un cane sono i momenti di empatia, sono i momenti di scambio infatti emotivo. Lei era estremamente empatica con me, è uscita dalla poltrona appunto dopo due giorni e si è piazzata in braccio a me, stava solo con me, mi teneva caldo, appunto avevo tanto freddo appunto dentro, e lei appunto mi teneva caldo, mi scaldava, mi guardava con questi suoi occhioni, insomma direi che forse lei ha aiutato te e tu hai aiutato lei. No, vi siete aiutati, benissimo. Lei, vabbè, sì, è vero, portandola via dalla Romania. Sì, allora, vi siete dato una seconda chance, una vita nuova, sì, una rinascita. Quindi questo è un racconto emblematico di quello che è successo a più di 5.000 cani, di cui oltre 2.000 soltanto in Italia. Quindi alla domanda chiedimi se sono felice, direi che possiamo rispondere di sì, rispetto infatti a quello che ha fatto Sara. Felice lei, felice io. Sara, in conclusione, ricordaci grazie per favore Costanza, ancora intanto una volta l'appuntamento che abbiamo con Save the Dog, con i 10 anni, per festeggiare i 10 anni di Save the Dogs. Allora, vogliamo celebrare 10 anni di attività il 27 di settembre, domenica, a Vapio d'Adda, Villa Castelbarco. La festa è aperta a tutti, tra l'altro vi invitiamo a venire con il vostro cane, al di là di dove sia stato adottato o preso il vostro cane, perché ci saranno gli amici e gli educatori cinofili di Think Dog per fare delle attività proprio con i cani. Vogliamo davvero che sia una giornata di festa, una giornata di celebrazione, perché Save the Dogs ha salvato questi animali, ma poi questi animali a loro volta hanno regalato tanta gioia e tanta felicità alle famiglie adottive che certo li hanno accolti. Senti, solo una cosa, mi chiedono, per chi non ha i mezzi, la macchina, c'è un modo per arrivare con i mezzi lì? Aia, questa è una domanda a cui non so rispondere, però noi sul nostro sito abbiamo comunque previsto tutte le indicazioni che verranno appunto pubblicate in questi okay giorni, quindi ecco, sul sito savethedogs.eu si trovano le indicazioni per raggiungere la festa. Ok, perfetto. Grazie mille Sara, grazie mille Costanza. Grazie, e grazie mille alla anche Adelina. Un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Vedi quante storie? Mamma mia, che emozionante questa mattina. No, ma poi sai, quando vedi queste persone che mollano il lavoro e si fanno veramente un... come si può dire? Diventa una missione. Beh, Sara ha avuto... come si dice? Sai quando si dice sento la chiamata per veramente dedichi la tua vita al prossimo e poi il prossimo ti ripaga con tanta di quell'amore, tanta di quella gioia, tante di quelle cose. Nel frattempo è stata molto coraggiosa. Guarda, allora una delle cose che insomma possiamo quindi sottolineare, magari approfondire per i nostri ascoltatori, è questa cosa dell'empatia, no? Esatto. Perché io, cioè, alzi la mano chi vive con un cane e che a un certo punto è stato male fisicamente, è stato male moralmente, il cane non se n'è accorto. Cioè la maggior parte dei cani che noi abbiamo a casa sono sensibili, anzi non la maggior parte, scusa, ho detto una cavolata, tutti i cani che noi abbiamo in casa stabilendo una relazione con noi sono sensibili al nostro modo di sentirci, sono empatici, non riescono a sentire il modo in cui ti senti, sia quando stai male fisicamente sia quando stai male moralmente. Ma difatti tu sei bravo. Ah, chi è? La citazione di chi? Terapie pallottole, un boss sottostress. Certo, terapie pallottole. Bellissimo. No, dicevo, tu insegni anche negli ultimi video che stai facendo di educazione, che quando un padrone al guinzaglio c'è il cane che tira, oppure che quando si avvicina qualcuno al carezzarlo morde, la prima cosa che ti ho sempre sentito dire è: guarda che tu intanto tira un sospiro di sollievo e rilassati tu, perché sì, se tu già sei sì teso gliela trasmetti a un cane che è già tendenzialmente... Ma questo per due motivi: uno è che il comportamento di un cane dipende da come il cane si sente, dallo stato mentale del cane, dallo stato emotivo. Cioè se io ho un cane che tira il guinzaglio hai voglia ad agire sul comportamento, quello che devo cambiare è il modo in cui si sente, le sue emozioni. Se un cane è agitato tirerà, ok? E quindi questa è la prima cosa. Esatto. La seconda è che le nostre emozioni influenzano il cane, per cui se il cane si agita e noi ci agitiamo perché ci arrabbiamo, questo non fa altro che farci andare in un circolo vizioso in cui il cane si mette a tirare ancora di più. Ecco, appunto, difatti non è facile. Senti, allora partiamo con la nostra, con il nostro, come si chiama? Me l'ha detto mio cugino. Che ti ha detto tu? Sentiamo un po'. Mi è sembrato di vedere un gatto. Ah, ecco. No, perché perché sai cosa? Sai che sembra che ti dico un gossip di una voce di corridoio? Non dirmela. Allora, quello che quello che invece stiamo dicendo è che tanti ascoltatori ci hanno detto: ma parlate sempre di cani, degli animali, perché non ci parlate di gatti? Allora, noi abbiamo sentito dire da un certo cugino che il gatto il gatto si affeziona di più al territorio che al padrone, o addirittura agli esseri umani non si affeziona, perché è opportunista. Il gatto, esatto, è molto indipendente, opportunista, quindi lui si affeziona alla casa perché sta caldo, gli dà da mangiare, ma non alle persone. Allora, siccome questa è la rubrica di me l'ha detto mio cugino, che di solito è una cuginata, ma sai che io non sono un esperto di gatti, allora ho interpellato una super esperta ma di gatti. Ma c'hai una gatta in casa? Eh sì, ma è una gatta sinuosa e sensuale, certo. Adesso ti faccio addestrare dalla persona che è in linea. Abbiamo in linea Laura Borromeo, che è una comportamentalista dei gatti. Ciao Laura. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Senti, io dicevo che sei una super esperta di gatti, perché Rosetta ha un dubbio qua. No, perché è vero che il gatto non si affeziona alle persone, ma si affeziona alla casa piuttosto che alle persone, a differenza dei cani, per esempio? Allora, direi che questo detto era più adatto alla figura del gatto nei tempi passati, nel senso che nei tempi passati, grazie a Dio, il gatto poteva uscire, stare fuori e aveva relativamente una relazione con l'uomo. In più, essendo un animale non sociale, ma che si abitua a essere sociale, chiaramente faceva la sua vita e non interagiva, anche perché l'umano non voleva tanto interagire con lui, lo usava per cacciare i topi e non si interessava di una relazione affettiva come invece è quella del gatto nei giorni di oggi, e perciò non ci si rendeva conto che invece il gatto, appunto essendo così capace di adattarsi alla situazione, si è anche adattato a diventare un animale quasi sociale. Perciò si relaziona con noi, si può dire, come farebbe un cane alcune volte, in maniera molto evidente, e chi ha i gatti lo sa benissimo, perché ha una relazione paritetica, e tante volte i miei clienti mi dicono: sa, è come fosse un cane, è vero. Questo per dire, per dare un'idea di cos'è il gatto. È strano oggi, perché invece Angelo, a me, quando mi ha conosciuto i primi tempi, diceva che i miei cani sembravano due gatti. No, questo lo dicevi te, ma perché uscivano poco rispetto a quello che... No, perché dormivano sul divano, perché erano molto ciambellati sui cuscini addosso a me, un po' più la vita del gatto, no? Che del cane. Sì, purtroppo, cioè da una parte purtroppo è verissimo che il gatto ha una grande capacità di dormire, infatti tanti studi sul sonno vengono proprio fatti sui gatti, perché ci si chiede come riescono a dormire 18 ore al giorno, cioè credo che nessun altro animale al mondo, fosse il bradipo, non lo so. E come mai dormono così tanto? Dormono così tanto perché sono dei felini che sono dei, diciamo, non sono dei maratoneti, ma hanno quegli scatti incredibili per cacciare, e perciò cacciano brevemente, velocemente, prendono la preda e poi mangiano e poi si riposano. E poi possono anche addormentarsi, e poi, perché sono anche animali crepuscolari, possono veramente cacciare i roditori tarda notte. Sappiamo anche che hanno queste capacità incredibili di sentire gli ultrasuoni, perciò di determinare dove sono i roditori, e poi presto al mattino cacciano gli uccellini, e poi possono dormire parecchie ore durante il giorno, proprio per non sprecare queste energie che gli servono per una caccia così da velocisti, non da maratonetti. Abbiamo delle altre domande da farti, solo che dobbiamo fare un break, soprattutto questa cosa dell'animale sociale che però può abituarsi a stare con gli amici. Incuriosisce particolarmente questa cosa. Non solo questo, e poi anche se per caso si può abituare un gatto come i cani a non sporcare. Ma ce ne abbiamo tante le domande. Comunque, quindi facciamo un attimo una pausa e poi continuiamo. A tra poco. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Non vi conviene far arrabbiare il gatto! E quindi, in questa trasmissione, no, che poi, il gatto, che poi i gatti quando si arrabbiano, o dividere due gatti che litigano, a me fa più paura che mettermi in mezzo a due cani. Ti saluto. Allora, ricordiamo, siamo in linea con una grande esperta di gatti che si chiama Laura Borromeo. Laura, grazie. Dividere due gatti che s'azzuffano è un macello, fra le unghie e i denti uno non sa come difendersi, no? Sì, tendenzialmente non c'è quasi nessuno che abbia il coraggio reale di mettere le mani tra due gatti e si aspetta che si dividano da soli. Sì, e devo dire che rispetto ai cani che magari mantengono la preda, il gatto colpisce ma poi subito si allontana, perché per lui la prima reazione è la via di fuga, ritualizza molto l'aggressività rispetto a metterle in atto, qualcosa che fa molto di più il cane, perciò per fortuna si staccano velocemente. Meno male, saperlo così non mi metto in mezzo. Allora, perché... non fate arrabbiare il gatto, no? Sì. Allora, il discorso è questo: Laura è una persona che si occupa proprio dei problemi comportamentali dei gatti. Cioè, io voglio dire, c'è questa figura professionale, no? Cioè, se una persona ha un problema comportamentale con un gatto, può chiamare un esperto. Questa è una cosa che io volevo dire, no? Ma quali sono i problemi per cui ti chiamano più frequentemente? Allora, facendo una piccola premessa, questa figura professionale non è molto conosciuta per quanto riguarda i gatti, lo è per i cani ma molto meno per i gatti. Iniziamo adesso, perché grazie a Dio se ne si parla anche nei media, allora qualcuno pensa di potersi rivolgere a un professionista. Di fatto i problemi sono parecchi. Di solito è chiaro che il proprietario ti chiama quando il problema riguarda più lui, tipo il gatto fa la pipì in casa, ti distrugge i divani o fa un danno, ecco, che si mette può, a... E quindi si può educare anche il gatto in questo senso, no? Sì, più che educare bisogna dare al gatto tutte quelle attrezzature che gli servono per fare il gatto, perché è chiaro che se un gatto deve graffiare perché in natura è un comportamento etologicamente corretto che ha un significato ben preciso, o gli diamo un graffiatoio o il graffiatoio e lui se lo trova sui nostri divani. Aspetta, quindi sulla dicevi, quindi, comportamento etologicamente... corretto vuol dire che in natura lui marca il suo territorio lasciando dei graffi che possono vedere gli altri gatti, perché qua si apre un bellissimo discorso del gatto che vive in un mondo olfattivo. Il gatto, rispetto a non essendo un animale sociale come accennavamo prima, si rivolge agli altri ecospecifici senza doverli incontrare, perciò marca tutto il territorio a livello sia visivo che olfattivo, visivo perché i graffi si vedono, e poi anche ci sono delle ghiandole interdigitali che lasciano sulle zampine, che lasciano questi messaggi olfattivi che sono i feromoni e che gli altri gatti possono leggere passando, e che gli dicono appunto la presenza, quando c'è stata la presenza dell'altro gatto, attraverso anche poi l'urina che fa da messaggio olfattivo, il gatto riesce ad avere tantissime informazioni, tipo il sesso, se l'altro gatto è sano, se è malato, se ha mangiato carne perciò è un bravo cacciatore, è nel periodo del calore o meno, da quanto tempo è passato, perché a seconda di quanto è evaporata l'urina. Ma quindi riesci un po', cioè, parlando proprio del comportamento del gatto, dei suoi bisogni, questa roba che il gatto non è un animale sociale, cioè se io ho un gatto, dice povero, resterà solo a casa, adesso prendo un gatto e glielo infilo in casa così gli faccio compagnia, non gli faccio un favore, forse? No, quasi mai, a meno che il gatto sia piccolino, oppure che i gatti siano già insieme, tipo due fratellini, oppure siano molto piccolini, perciò si mantiene l'unico momento sociale, che è quando il gatto sta con la mamma, perciò i primi 6-7 mesi, allora in quel momento è ancora un animale sociale, quando poi diventa adulto il gatto va per conto suo a occupare un territorio. Noi dobbiamo riferirci chiaramente al gatto in natura, non al gatto che poi noi vediamo nelle colonie in città, perché gli forniamo il cibo. Il gatto in natura andrebbe per conto suo. Comunque, insomma, fantastico, mi voglio prendere anche i gatti. Laura, un'ultima domanda ti volevo fare, che insomma, perché quando i gatti si accoppiano fanno quegli urli che a me sembrano strazianti, che dico mi sembra che si stia violentando una femmina? Possibile che non riescano ad avere una relazione sessuale serena i gatti? Sì. Allora, di solito gli urli terrificanti sono gli urli che si danno, sono prima dell'accoppiamento, nel senso che sono i maschi che si sfidano tra di loro e perciò fanno quegli urli che vogliono, più forte li fanno, più fanno pensare all'altro di essere potente e di poterlo, diciamo, vincere. Tipo Bruce Lee al Colosseo, no? Quelle robe. Sì, ma quelli sono gli urli di battaglia proprio, prima di attaccarsi, perché come dicevamo prima, l'aggressività è ritualizzata. L'unica volta che veramente non può non esserlo, anche se molte volte lo è per le cose amorose. vincere la possibilità di accoppiarsi. Allora, Lara, qua si stanno aprendo delle parentesi che noi ci dobbiamo richiamare, sì. Degli scenari fantastici, okay. Bellissimi. Ci ricordi al volo il tuo sito, così per chi ha un gatto e volesse veramente chiamarti, certo. Per avere tutti questi consigli, il libro? Sì, allora, volentierissimo, è facile perché è www.lauraborromeo.it, non ci si può sbagliare. Senti, ma tu, per caso, c'è in libreria un libro che tu consiglieresti, sentiresti consigliare sul gatto? Un libro che io potrei consigliare di Claire Bessant, è scritto Claire Bessant, Cosa vogliono i gatti. Cosa vogliono i gatti. Benissimo. Esatto. Corriamo a comprarlo. Grazie, grazie Laura. Laura. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, buona giornata. Grazie anche a te. Ciao, ciao, ciao. Mamma mia, fa impressione a me, ma è sempre inquietato i gatti. What-ta! Amore, però scusa, tu non fai mai sti urli prima, però. Madonna mia. Ma certo, ma questi sono gli urli dei rivali, no? Cioè, ti ha appena spiegato Laura che quando c'è un rivale, allora io faccio Bruce Lee quando c'è un rivale. Non hai mai visto dare un colpo sulla carotide a qualcuno? Sulla carotide. Ma a proposito, stiamo parlando di Bruce Lee, personaggio mondiale, no? Della scena. Amo la follia, che tu ami la follia, peraltro. Però idolo. Qui abbiamo un momento che, se vuoi, ci scalda il cuore, perché parliamo di un altro VIP. Eccoci! Fantastico! A dare il benvenuto! La persona e il personaggio di oggi, io l'ho sempre invidiata, la stimo da morire. Stiamo parlando di Licia Colò. Licia? Licia! Ciao, ciao ragazzi! Fantastico! Beh, certo, il paragone con Bruce Lee magari, avrei tante persone da picchiare. Ma te sei la paladina degli animali, cioè esatto. Tu qua hai veramente, sei il nostro idolo. È vero, guarda. Mi servirebbero le doti di Bruce Lee per difendere molti animali. Vero, ma da quanto tempo tu ti occupi di animali in TV, nei media? Ma guarda, in televisione dall'89, quindi sono passati un po' di anni. Poi personalmente me ne sono sempre occupata perché ho iniziato che avevo 4 anni ad essere una lottatrice per i diritti degli animali. Quindi fantastico. Evidentemente sono nata animale, ragazzi, che vi devo fantastico. Dire. Fantastico. Guarda, oggi questa puntata abbiamo parlato anche con Sara Turietta, che ha fondato 10 anni fa Save the Dogs in Romania. Anzi, una ti invitiamo. Grande donna. Fa questa festa dei 10 anni il 27 di settembre, se vuoi venire... siamo felicissimi. E tu anche, grazie. Cioè avete proprio questo spirito di questa sensibilità verso veramente tutto il mondo animale, che necessita appunto del nostro rispetto. Ma guarda, io credo che ognuno di noi dovrebbe fare qualcosa. Sara si è dedicata alla salvaguardia, al salvataggio reale di tanti cani in maniera assoluta. Io mi occupo di comunicazione nel tentativo di far capire quanto gli animali abbiano diritto ad essere rispettati. Però chiunque dovrebbe fare qualcosa, certo. Anche un semplice gesto una volta l'anno basterebbe a migliorare la vita di tanti animali che non hanno modo di difendersi. Ma cosa ti ha spinto a cominciare questa cosa? Cioè, tu hai detto addirittura 4 anni avevi? Sì, Angelo, perché io andavo all'asilo e hanno abbandonato la classica scatola con i gattini davanti all'uscita dell'asilo. Okay. Erano 4 gattini, me lo ricordo come se fosse ieri, bellissimi. Uno però era ridotto abbastanza male, era senza coda. Io sapevo che non potevo portare animali a casa perché i miei genitori non me lo permettevano. Ovviamente i più belli sono stati subito scelti, è rimasto quello che non voleva nessuno perché dicevano è brutto, certo. Invece secondo me era favoloso. E io l'ho subito preso, l'ho portato a casa piangendo, dicendo che non lo voleva nessuno, e allora i miei genitori non sono riusciti a dirmi di no, quindi certo. Il primo gatto era acciaccato e senza coda, ma è diventato un gran fico alla fine. Fantastico. Con sotto le mie cure. Senti, che cosa ti hanno dato tutti gli animali che hai incontrato? Perché tu hai fatto per anni, veramente hai raccontato la storia di tantissime specie animali, hai girato proprio il mondo, li hai visti anche da vicino. Che cosa puoi dire nella tua esperienza con il mondo animale, che tu hai avuto la fortuna proprio di vivere così da vicino? Guarda, quello che posso dire è che sicuramente lo conosciamo molto poco, perché noi dividiamo il pianeta in mondo degli uomini e mondo degli animali, senza renderci conto che il mondo è uno solo e dovremmo condividerlo. Grande. Molte persone vivono gli animali come qualcosa spesso di pericoloso, hanno paura addirittura di cani e gatti che sono da sempre con l'essere umano, però poi hanno paura di ragni, hanno paura di formiche, hanno paura insomma di tutto ciò che vive e che non è umano. umano, quindi c'è secondo me molta ignoranza a riguardo, sì. Ed è giusto fare conoscere quello che è. Dopodiché gli animali mi hanno insegnato una cosa bellissima che noi abbiamo perso da tanto tanto tempo, che bisogna imparare a vivere di presente. Loro non vivono né di passato né di futuro, vivono di presente, e secondo me è una dote che dovremmo imparare. Pensa che è una cosa che mi dicono tutte le persone che hanno avuto un certo contatto profondo con gli animali, no? Il fatto di essere presenti, di essere attenti al qui e ora. Grandioso. Sì. Senti, Licia, tu cosa... Invece noi pensiamo, sai, pensiamo, sai, io faccio questi sacrifici, poi un domani io farò questo, il presente non ce ne accorgiamo e diciamo, però come ero felice quando avevo 20 anni, e magari quando avevo 20 anni, no, non ero contento. Viviamo un pochino più di presente. Pensa, c'è una famosa citazione del Buddha che dice, non c'è una via per la felicità è la via. Ah, certo. Bellissimo. Ah, che magari. Senti, magari, Licia, di che cosa stai facendo? Raccontaci che cosa stai facendo adesso, così informiamo tutti. Guarda, i fan. Guarda, Rosita, noi intanto uniamo le forze, esatto. Perché voi siete meravigliosi ed uniamo le forze. Io ormai è un anno che sono a TV 2000, sì. Che è la televisione bene o male del Vaticano, sul canale 28 del digitale terrestre, sì. E qui mi occupo come sempre di conoscenza del mondo, con Il Mondo Insieme, che ripartirà l'11 ottobre in diretta, sì. Dalle 15 alle 18, e poi Animali Animali, che attualmente non va in onda, ma quando ripartiremo a gennaio uniamo le forze per promuovere il rispetto e il diritto degli animali, come voi state facendo. Assolutamente sì, e poi guarda, ci incontreremo anche poi di persona, a parte radio, TV e cose, siamo sempre disponibili, sempre uniti, e ti ringrazio intanto di questa chiacchierata con noi e ci risentiamo sicuramente. Grazie. Ciao Licia, grazie. Un abbraccio affettuoso, ciao. Grazie. Anche a te un abbraccio, ciao. Grande, ciao. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Boh, che bello quest'inno. Cantamelo. E veramente non sarei proprio portato in questo momento. Reginaldo? Reginaldo. Allora, spiegami perché in questo momento abbiamo messo questa sigla, cara Rosita. Abbiamo messo questa sigla perché parleremo del Welsh Corgi Pembroke. Che è ovvero il cane di regina d'Inghilterra. Che mi sembra salsicciotto lungo, salsicciotto. Con zampette corte. Non mi offendere questo splendido cane. Può piacere. E infatti abbiamo... Può piacere. Perché abbiamo con noi un amico che è Giovanni Schirru, che è un proprietario di Welsh Corgi, ma con lui ci ha fatto un sacco di cose, ci ha fatto agility, ci ha fatto obedience, quindi può raccontarci non soltanto della razza così in generale, ma come un proprietario appassionato si vive questa relazione con questo splendido ciao cane. Giovanni, ciao, buongiorno. Io gioco un po' perché per creare un po' così, insomma, effettivamente è buffo questo cane, a parte che è la prima volta che so come si chiama Welsh Corgi Pembroke. Io ho sempre chiamato il cane della regina. Effettivamente viene conosciuto come il cane della regina. Io, parlando in giro, mi chiedevano che cane è di quel cane della regina. Il cane della regina. Certo. Poi spiegavo. Ma infatti no. Ma io sostengo che il Corgi Pembroke non è un cane grande, ma è un grande cane. Ah, vedi? Sì, Perché? Che caratteristiche ha? Allora, c'è un piccolo problema che ha delle dimensioni ovviamente piccole, ma sì. Nessuno si è ricordato di dirlo al Corgi che è piccolo di statura. Quindi lui si sente un gigante. Si considera un cane grande a tutti gli effetti. Vedi? Perché è un cane che in casa, in famiglia, con le persone è eccezionale, fantastico, meraviglioso. Ma quindi, scusa, quali sono le origini della razza? Cioè, a chi è venuto in mente? C'è una discussione fra gli esperti, nel senso che c'è chi dice che è una razza autoctona del Galles, c'è chi dice che invece nel Galles l'hanno portato i vichinghi intorno all'anno 1000. Ah, i vichinghi, cioè questo è un cane vichinghi. Ma cos'è? Un cane da compagnia, un cane da pastore? No, è un cane da pastore, e ancora oggi viene usato come tale, nel senso che nel Galles, piuttosto che in Australia, le mandrie delle mucche vengono spostate con i corgi che vanno a mordere i garretti. Ma tu pensi? Ma pensa, capito? Questi sono dei cuor di leone, altro che... Ecco perché dicevo dicevo prima, che nessuno gli ha detto che però sono piccoli. Certo. Loro si sentono tipo cani enormi in tutto e per tutto. E questo può essere un po' il limite, se vogliamo, perché fa sì che i rapporti con le altre razze vanno gestiti con un po' di attenzione, ecco. Ah, perché è litigioso con gli altri cani? Allora, da questo punto di vista non è molto, molto docile. Lui è fiero della sua potenza, della sua forza, e non merita a misurarsi con altre razze, per cui io l'ho avuto in casa con altri cani, e anche la gestione di cani di famiglia richiedeva sempre un briciolo di attenzione, perché insomma lui pensa di essere il numero uno, ecco. Senti, ma perché la regina ha scelto proprio questa razza di cani? Allora, la regina non l'ha scelta, il padre, che mi pare intorno agli anni 30, gli ha regalato un corgi. Sì. E di lì è nato questo suo grande amore di Elisabetta, allora bambina, per questa razza. Tanto è vero che c'è un affisso suo, proprio Windsor, che si identifica questo suo. No, cioè un affisso significa che la regina li alleva. Hanno comunicato, mi pare, la settimana scorsa, insomma, che ha interrotto l'allevamento con gli ultimi due corgi che gli sono rimasti, vista la sua età, non proprio giovanissima, per cui va ad estinguersi. Ah, perché non vuole che il suo successore poi prosegua, vuole che deve prendere un'altra razza di cane. In effetti se il corgi è diventato famoso è perché è stato il suo simbolo. Certo, simbolo. Infatti era l'unico che andava in campagna, girava da tutte le stanze, di qua, di là, di su, di giù, non c'erano limiti, ai corgi. Senti, ma a questo punto mi viene un dubbio, no? Cioè, una persona in questo momento magari ci ascolta e dice: "Toh, ma che roba, proprio io che avevo pensato di adottare un Welsh Corgi, no?" Sì. Ma se questo è un mandriano, è un cane quindi che non è, cioè avrà bisogno di movimento, di fare attività, di anche allora, forse il Corgi ha bisogno di attività, diciamo un po' come tutti i cani comunque. Certo. Lui fosse un po' più di altri. Un po' più di altri. Io sulle mucche non l'ho mai portato, ecco, però lui ha fatto fare altre 8.000 corse, però si adatta anche a essere un cane da compagnia, nel senso che in casa lui si trova bene, non andrà a problemi. Se lo fa lavorare nel suo ambiente, cioè in mezzo ai prati, così a fare attività varie, è un cane che risponde benissimo comunque. Vedi? Ecco. Quindi ovviamente è un cane... Io ti ho fatto un po' di tutto, agility, obedience, discipline svedesi, di tutto un po', insomma. Quindi ho sempre avuto delle risposte. Ecco. Obedience, raccontaci un po', per chi non è addetto ai lavori, che cos'è l'obedience? Allora, faccio una piccola premessa. Quella che non c'ho io, l'obedience. Due cose. Primo, voglio solo dire il nome del mio cane, che io l'avevo già deciso, l'allevatore mi aveva detto che si deve chiamare con la lettera S. Mm-hmm. Io avevo deciso Sacher, visto il mio amore per la torta. Sì, fantastico, anch'io l'adoro la Sacher, cavolo. Dopodiché, però Sacher mi sembrava un po' riduttivo per questo cane, e allora gli ho messo davanti Sua Altezza Sacher. Bellissimo. Sua Altezza Sacher è bellissimo. Senti, io non voglio rovinare, come si dice, questo momento di regalità anche del tuo cane, ma mi è venuto in mente un mio amico come aveva chiamato il suo cane. Non so se lo posso dire adesso. Oh, oddio, hai dei dubbi? Cioè, perché se hai dei dubbi ho delle certezze, non devi dirlo. Cioè, come si chiama? L'ha chiamato bidet. Come fai? Perché bidet? Ho capito. Ma chi è questo bidet tuo amico che lo vado a trovare e gli faccio le mosse di Bruce Lee? Però no, fa ridere, ma perché i nomi dei cani a volte sono favolosi, sono geniali, hanno una genialità dietro, no? Scusami. Anche il tuo, mi piace da morire il nome del tuo cane. Il tuo cane sicuramente si comporterà in un modo molto regale, avrà un portamento regale, no? Comportamento molto regale. Molto e Giovanni regale. Ti vogliamo ringraziare da Radio 24 con Rosetta Celentano qui. Giovanni, che grazie, aveva delle curiosità, sì, su questa razza. Sì, molto, è molto simpatico. Però guarda, devo dire, ha un musetto molto simpatico, cioè è proprio un cane simpatico, comunque, che esprime simpatia tantissimo. Sì, ma come lo vedi, come uno lo vede se ne innamora, e questo è fuori di dubbio. Bene, grazie mille, grazie Giovanni, mille, sei Giovanni. Stato gentilissimo. Prego, arrivederci, grazie. Ciao, alla prossima. Ciao. Allora, anche questa domenica è volata, però io vorrei fare una cosa che solitamente non facciamo, magari ripetiamo. Volevo anticipare l'argomento di domenica prossima, perché sì, voglio parlare, esatto, importante. Perché ci tengo veramente tanto, per mille motivi che poi vi spiegherò, a parlare di circhi, degli animali nei circhi, cioè abolire assolutamente gli animali dei circhi. Vi parleremo di quali sono quegli stati che già hanno abolito gli animali nei circhi, come iniziano in Spagna addirittura a smettere di fare le corride in alcuni stati. Sì, bravissima, questa è un'altra bellissima esatto, notizia. Esatto, proprio perché gli animali bisogna rispettarli e non ridicolizzarli o usarli. Detto ciò, però chiunque dire, voglia, ecco, esatto, brava. Ecco, chiunque voglia controbattere e parlare con noi su questo argomento dei circhi può scrivere a chiedimi se sono felice @radio24.it, perché noi siamo disponibili, perché siamo a democratici, un anche se sì, noi esatto, siamo a favore di togliere gli animali dei circhi. Magari qualcuno dice no, li voglio, io voglio capire perché no, veramente... capire soprattutto perché ci si accanisce a continuare a tenerli gli animali, quando secondo me per mille motivi è meglio prima di tutto rispetto a loro. Con questo prendo fiato, ragazzi. Angelo, fai qualche urlo in queste sere come i gatti. Io voglio, allora, voglio chiudere con una notizia. Pare che, visto che stanno finendo, sono finite da poco le vacanze, il 76% degli italiani, secondo l'assalco Zoomark, preferisce andare in vacanza con il proprio animale. E benissimo, vi diamo una buonissima, vi auguriamo una buonissima domenica, proseguimento di domenica. Noi ci vediamo domenica prossima. Un grande bacio, scriveteci sui social, su Facebook, su Twitter, ci trovate dappertutto. Angelo Vaira e Rosetta Celentano da Radio 24. Wow!